Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Dobbiamo chiedere scusa a tutti, ai siciliani e soprattutto a chi non ha fatto le opere e non le ha segnalate, perché vivranno tanti mesi di disagio. La Sicilia è spaccata in due, però questo è soltanto, come dire, il sintomo di una malattia, perché tre indizi fanno una prova. Noi abbiamo avuto solo nell'ultimo anno in Sicilia tre viadotti crollati per frana, per dissesto idrogeologico, e purtroppo nemmeno l'ultima frana, che è veramente la più grave, ci è stata segnalata. Quindi c'è un tema che ha a che fare molto con i controlli, i monitoraggi e non soltanto con la cura e la manutenzione del territorio. Un viadotto crolla per una frana non segnalata. Quanto costerà ripararlo e chi paga? Intanto la frana è stata segnalata, chi ci vive la conosce da 60 anni, ci dicono, ma è stata segnalata 10 anni fa dal comune. Né ANAS né Regione sono intervenuti. Oggi ci troviamo a dover rifare il viadotto, avrà un costo intorno, ci dice la stessa Regione siciliana, intorno ai 350 milioni. Con 15, 20, 25 milioni quella frana poteva essere messa in sicurezza. Salvatore Tonti, direttore regionale dell'ANAS Sicilia. Quello che abbiamo sentito era Erasmo De Angelis, il coordinatore della struttura di missione di Palazzo Chigi. Ecco, insomma, il cedimento è colpa vostra, no? Assolutamente no, nel senso che noi ci occupiamo delle infrastrutture, non ci occupiamo del dissesto del territorio. Ecco, ma di chi può essere la responsabilità di non aver tenuto conto di una zona segnalata a rischio? Se non è vostra la responsabilità, di chi può essere? Guardi, io volevo un attimo fare una piccola precisazione. Prego, prego. Su questa segnalazione del rischio, nel senso che la carta del PAI, che è il piano di assesto idrogeologico redatta dalla Regione Sicilia, nel tratto, nella pendice, nella collina stiamo parlando, sostanzialmente riporta un rischio moderato, cioè un rischio sostanzialmente. Quindi basso. L'errore è nella pianta della Sicilia. Fatta no, arrivo subito al punto. Un rischio moderato, con un evento probabile o evento che si può possibile di una colata lenta. Il fenomeno invece che si è verificato è un fenomeno di dimensioni di gran lunga superiore a quelle censite. D'accordo, però certo non era un posto ideale, diciamo, almeno colata lenta o colata veloce, insomma. Comunque. No, questo voglio dire rispetto al fatto dei dati conosciuti, è profondamente diverso tra la colata lenta e quello che si è mobilitato in pochissime ore, è profondamente diverso. Beh, però adesso rifare anche il discorso che si fa relativamente alla frana di 10 anni fa, è vero che c'è stata una frana 10 anni fa, ma una frana di modeste dimensioni, veramente modestissima rispetto a quello che è successo, e sul punto intervenne protezione civile. Però, ingegner Tonti, uno lo fa in un posto dove è un po' più sicuro. Adesso se è un po' lenta, un po' veloce, c'è una gran differenza, non lo metto in dubbio, lo capisco, però certo non è il posto ideale, questo mi pare che sia chiaro, no? Guardi, l'autostrada fu progettata negli anni 60 e realizzata poi e completata nei primissimi anni 70, e all'epoca in quelle zone erano state censite una serie di frane che furono affrontate all'epoca della realizzazione. Come sempre in Italia non si riesce mai a capire, potere tanto, responsabilità niente. Ma adesso per rifare il viadotto, si dice, costerà 350 milioni. Ne sarebbero bastati 15 o 20, credo, zona in sicurezza. No, non sono questi i numeri. No, mi dai i numeri esatti. No, allora. Probabilmente 350 milioni è la richiesta che la Regione ha fatto per affrontare i problemi di dissesto idrogeologico. Ah, di tutti? Sì, ho capito. Giusto, e invece per segnalarle, solo nel 2015 o quantomeno nella stagione invernale a cavallo tra 2014 e 2015 sono state censite dalla Regione oltre 6.000 frane. Sì, scusi ingegnere, allora questi 350 milioni sono riferiti al piano per sistemare, diciamo così, per capirci, tutto, non solo il viadotto, è così? No? Non solo quest'area, appunto, non solo tante aree in Sicilia di dissesto idrogeologico in Sicilia. Senta, per rimediare ai disagi, comunque l'ANAS adesso lì, in quella zona, invece dovrebbe realizzare in 3 mesi, se ho capito bene, una bretella sulla provinciale 24 e la statale 120. È così, no? No, è abbastanza quello che dice lei, nel senso la bretella usa parte della provinciale 24, vabbè, adesso non la 120, per questo le dico giusto la provinciale 24, poi si crea un innesto provvisorio. Va bene, d'accordo, comunque allora sì, si fa questa bretella, però per Gianvito Graziano, che è il presidente dell'Ordine dei Geologi, 3 mesi sono una previsione assolutamente ottimistica. Siamo sempre al detto fatto? Allora, la previsione dei 3 mesi è una previsione che può essere realistica. È tecnica o politica? No, non è né tecnica, nel senso che è tecnica, però abbiamo naturalmente posto la questione che per rispettare i 3 mesi occorre procedere in deroga ad alcune norme, perché è vista l'emergenza assoluta che si è venuta a creare. Le opere si riescono a fare solo in emergenza in realtà in Italia, questo è il dato. Ma no, questa è una bretella provvisoria, sì, e chiediamo eventualmente le deroghe solo per una situazione d'emergenza così grave, per l'ordinario. A proposito della fragilità delle opere siciliane, però senta cosa ha dichiarato lei stesso a Report di Milena Gabbanelli. Perché è crollato? Guardi, c'è stato tutto un periodo di piogge, addirittura c'è stata una nevicata particolarmente intensa. Lei si riferiva al viadotto di Scorciavecchia, no? Sì, anche qui. Ma lei capisce che è difficile da credere che è un problema di pioggia. No, però bisogna fare una precisazione. Sì, innanzitutto non è venuto giù il viadotto Scorciavecchia. Purtroppo sono mesi che lo diciamo, ma non si riesce a far passare il messaggio, nel senso che quello che ha ceduto è il rilevato di accesso al... D'accordo, però al lei dice ha piovuto tanto, lei pensa che si possa credere che è un problema di pioggia? No. Quella è un estratto dell'intervista più ampia, nel senso che le piogge hanno potuto costituire una concausa a quella che poi tra l'altro la nostra commissione stessa ha individuato una serie come di causa cause principale, principali. Qual era la causa principale? Cause principali si è verificato sia un errore di progettazione che un errore di esecuzione, probabilmente accelerato dalle condizioni meteo avverse di tutta questa. Ma errore di progettazione e errore di esecuzione di chi? Delle società che hanno costruito? Quello è un contraente generale, nel senso che il contraente generale è sostanzialmente deve darci chiavi in mano per capire. Riteniamo che l'errore di progettazione stia nell'ambito del contraente generale, l'errore di esecuzione tra il contraente generale e il direttore dei lavori che doveva seguire l'esecuzione dei lavori. Senta, lo scorso 4 gennaio, subito dopo quel crollo, Renzi ha twittato: inaugurato il 23 dicembre, crolla in 10 giorni. Ho chiesto a ANAS il nome del responsabile, pagherà tutto. Allora, che nome ha avuto Renzi? Guardi, questo va chiesto alla nostra direzione, nel senso che... Lei lo saprà, no? No, non lo sa? Il direttore non lo sa? No, nel senso che noi abbiamo considerato che il problema principale, come le dicevo, si è verificata tra l'esecuzione e la progettazione. Sì, ma ha detto la responsabile chi doveva in qualche modo controllare, no? E per noi chi doveva controllare è il direttore dei lavori. Quindi a Renzi non gli avete dato nessun nome? Guardi, questo, ripeto, è una domanda che va rivolta alla direzione. Io ho visto nella puntata della Gabbanelli fare riferimento a un certo Bucci, è così? No, il collega che era il responsabile del procedimento. Cioè non è vero, insomma, non è lui il responsabile? No, è il responsabile del procedimento Senta, le faccio sentire quello che ha detto la Gabbanelli, così ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Il presidente Pietro Ciucci ha consegnato al premier Renzi la testa del colpevole. Claudio Bucci, responsabile nuove costruzioni e progettazioni in Sicilia, lo ha trasferito all'Aquila, dove risiede con la moglie, anche lei in ANAS. Ecco, magari più che un siluramento, sembrerebbe quasi un favore. Lei non ne sa nulla di questo? Come no? Che bella moda. Dicevo, l'ingegner Bucci dopo questi eventi è rientrato all'Aquila. È stato rientrato, cioè è stato trasferito, perché lui dell'Aquila? È stato trasferito all'Aquila, sì. Senta, ingegner Tonti, lei prima era il capo del compartimento in Calabria ed era vice direttore dell'ufficio speciale per autostrada Salerno, Reggio Calabria. Ecco, sì. Dopo 25 anni doveva essere terminata nel 2013, lo diceva il presidente dell'ANAS, che adesso si è dimesso. Invece ancora niente. Ma finirà mai questa autostrada, secondo lei? Guardi, lei che c'è stato, guardi, la diretta? Salerno-Reggio Calabria ha oltre 350 chilometri di autostrada ammodernata. Io le chiedo se finirà, diciamo, ma, un pezzetto. Ormai cioè, prossima al completamento. Sì. Lei su che data ha scommessa? Conosce la situazione dei lavori, l'esecuzione dei lavori, vorrei almeno questo poter chiarirlo. No, lei può chiarire tutto, guardi. Ha seguito il flusso dei finanziamenti, man mano che venivano finanziati venivano immediatamente appaltati i lotti e quindi eseguiti. Quindi lei dice sono mancati i finanziamenti se dura da 25 anni? Non sono mancati. Cioè no, sono stati lenti, piano piano? Sono stati progressivi rispetto a quelle che erano le disponibilità finanziarie. Senta, l'ANAS intanto ha comunicato delle nuove limitazioni, delle interruzioni alla circolazione sulle strade siciliane, la strada 288 dei Dona, 417 di Caltagirone, l'autostrada A19 Palermo-Catania, insomma non le cito tutte perché sono tante. Siamo un po' al collasso nella rete viaria in Sicilia? Anche noi stiamo soffrendo di questo dissesto idrogeologico, nel senso che il dissesto idrogeologico è del territorio, le nostre strade attraversano un territorio che ha problemi di questo tipo, è chiaro che anche le nostre infrastrutture ne risentono. È perché la manutenzione è inadeguata? Ma in questo caso non c'entra la manutenzione. Sono tante perché strade. Quando ci viene giù una frana non è un problema di manutenzione, di pianificazione. No, ma dato che sono tante le strade che hanno problemi, insomma, sembra quasi, io non vedo da qua. Guardi, noi in Sicilia gestiamo circa 4.000 chilometri di strade, sì, che insomma è un patrimonio importante. Certo, molto. Le strade che hanno dei problemi sono diverse, ma il tutto è limitato a qualche chilometro. Senta, un'ultimissima cosa, ingegner Tonti. C'è una class action contro di voi. Siete preoccupati? Guardi, noi riteniamo di essere stati assolutamente danneggiati da questo fenomeno e da questa frana, noi insieme ai siciliani. È chiaro che essendo il La class action vi preoccupa, visto che poi alla fine in ultima analisi è contro di voi? È in ultima analisi è contro di noi, perché è chiaro che l'ultimo anello della catena è il viadotto che è venuto... Insomma, lei lo sa che può finire male questa cosa? Ma noi siamo, ripeto, siete pronti sereni a pagare, insomma? Siamo pronti a pagare, siamo sereni perché riteniamo di non essere responsabili. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS se avete qualcosa da dirci o da chiederci. Beh, insomma, è una situazione abbastanza kafkiana, surreale, insomma, no? No, insomma, no. Durante l'intervista non ha mai toccato palla, proprio una cosa un po' imbarazzante, un pochino complicato, sì. Pietrangelo, io vorrei ricordare, a meno che io non abbia sbagliato, che i famosi 3 mesi per la costruzione della bretella sono parole di Graziano Del Rio. E quindi vorrei sottolineare come accanto ai disastri, diciamo, dell'ordinaria amministrazione, c'è anche il grave rischio del ridicolo, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore stiamo parlando di una vera e propria tragedia commerciale, economica e culturale per la Sicilia, ed è la responsabilità della politica. Io sto lì a controllare. Lui è appena andato, adesso vediamo se sti 3 mesi sono 3 mesi. Il guaio è che ci va in bicicletta. No, non è andato in bicicletta. Dai, su, 9:25. Mimmo Costanzo è un catanese, è presidente e fondatore del gruppo Cogip, cofondatore di Tecnis, con circa 1.000 dipendenti, un fatturato di 350 milioni, una delle maggiori imprese nel settore settore delle grandi costruzioni, per l'appunto, in Sicilia e altrove. Ecco, dottor Costanzo, nel 2012 una sua denuncia ha portato all'arresto e alla condanna in primo grado di esponenti dell''ndrangheta perché chiedevano il pizzo e lei non l'ha pagato, così? Sì, hanno chiesto il pizzo e in questi casi sappiamo che l'unica cosa da fare è la denuncia, fornendo tutti gli elementi alle forze dell'ordine, che poi nel nostro caso ovviamente ha permesso di trarre in arresto più persone di un clan dell''ndrangheta. Voi avete consegnato in anticipo il vostro tratto della Salerno-Reggio Calabria, quello che si era aggiudicato. Come ha fatto? Ma sindaco, si è trattato di un'opera che ha visto tutti gli stakeholders, a cominciare da ANAS, impresa, fornitori, sindacati, lavorare con impegno e con dedizione. Ma dato che la Salerno-Reggio Calabria è una via crucis che dura da 25 anni, insomma, è strano, colpisce il fatto che abbiate consegnato in anticipo il vostro tratto. Ma io credo ci sia stata una forte volontà da parte del territorio, una sorta di riscatto da parte del territorio, inteso in senso più generale, perché tutti avevano necessità di poter suffruire, di dare un segnale in qualche modo, di fruire anche dell'opera quanto prima. Ma senta, quella ancora non è a posto completamente, ma c'era un premio a vostro favore per consegnare in anticipo? Ma diciamo che c'erano delle milestone che prevedevano delle risorse finanziarie se appunto fossimo riusciti a raggiungere quindi c'era obiettivi. Un premio, diciamo, detto che si capisce. Sì, assolutamente sì. Senta, il 30 dicembre scorso, appena una settimana dalla inaugurazione, è crollato il viadotto della Scorcevacche sulla statale 121. Anche quello era stato consegnato in anticipo, la sua azienda era nel consorzio delle imprese costruttrici. Ma cos'è successo? Ma intanto lì non c'era nessun premio, non c'era nessuna necessità di accelerare. Io credo che sia sempre un errore progettuale per risparmiare. Cosa è capitato? Ma diciamo che lì c'è un'indagine da parte della magistratura che dovrà individuare le responsabilità, quindi noi insomma ovviamente siamo pronti, aspettiamo, certo. Noi come di comune accordo con CMC, che è appunto azienda del gruppo, avevamo già programmato di uscire dal consorzio dove avevamo una quota minoritaria per concentrarci su altri casi. Però voi eravate nel consorzio, lei mi sembra che sia uscito due o tre settimane fa, poco tempo fa. Noi c'eravamo, c'eravate, insomma. Ci assumiamo la vostra quota di responsabilità. Senta, ma esistono dei casi, a parte questo, in cui sono previsti premi di produzione per i lavori consegnati in anticipo? Ma sì, sono previsti dei casi e tra l'altro c'è una legge che sull'argomento parla chiaro, è possibile, se è d'accordo con la stazione appaltante, poter conseguire dei premi nel caso in cui si consegnasse in anticipo. Senta, il neo ministro Delrio ha escluso l'autostrada Ragusa-Catania dal piano delle infrastrutture strategiche contenuto nel DEF, quindi non si farà più la Ragusa-Catania? No, invece ci viene assicurato che la Catania-Ragusa appunto si farà, il mancato inserimento nel DEF non equivale alla cancellazione dell'opera. Cosa significa? Cioè significa che il DEF è uno strumento ricognitivo delle opere nazionali di interesse europeo, ma non è un atto che finanzia le opere, ma serve solo alla programmazione generale. Ma allora perché escluderlo? Io credo che è stato escluso perché comunque già è un'opera finanziata. Secondo lei si farà? Le opere nazionali di interesse europeo, quindi non è un atto che finanzia le opere. Quindi l'ho letto anche ai giornali e so che insomma questo finanziamento è stato confermato. Si tratta comunque di un'opera in project finance, dove non soltanto si può contare sul finanziamento statale, ma anche dal finanziamento dei privati, ovviamente attraverso il sistema bancario. Senta, l'Italia deve ancora spendere 7,6 miliardi dei fondi europei entro la fine dell'anno, altrimenti andranno persi. In Sicilia come state con i fondi passivi degli investimenti europei? Ma questo è diciamo che l'Italia da anni è agli ultimi posti per assorbimento. Lo so bene, sì. E capacità di attrazione di fondi europei. Ma in Sicilia? Ecco, in Sicilia è ancora peggio. Ora ovviamente è necessario cambiare radicalmente quanto fatto in passato, e io credo che nonostante gli enormi sprechi, l'eccessiva fermentazione dei progetti difetti, comunque in taluni casi, se vogliamo, anche evidenti incapacità amministrativa, quindi io credo che ci sia una forma di responsabilità da parte della burocrazia. Io rimango comunque ottimista, devo essere, perché faccio un imprenditore, ma perché ritengo che ci sia una buona possibilità di riscatto da parte dell'Italia, che comunque può contare su numeri importantissimi. Dottor Costanzo, ma per restare in Sicilia, la Sicilia non è una regione autonoma in grado teoricamente di agire più velocemente, autonomamente? No, io non credo che cioè sia l'autonomia regionale non dà una possibilità di azioni più rapide? Io non credo. Perché? Perché la politica non è riuscita a gestire con profitto l'autonomia, quindi io invece sono tra quelli che credo si debba invece cercare di essere più interattivi. Cioè meno autonomi, meno autonomia in Sicilia secondo lei servirebbe? Ma io penso proprio di sì. Ecco, senta, un'ultimissima cosa, ma questi disastri continuano in Sicilia? Non può mica essere solo la pioggia? Ma io credo che per poter fare in modo che un'opera duri nel tempo non è necessario soltanto costruirla bene, ma bisogna dedicare un servizio di manutenzione adeguata all'opera. Naturalmente, quindi, però queste crollano appena costruite, quindi diciamo che non c'è neanche il tempo di mantenerle perché finiscono prima. Ma ci sono alcune che sono finite prima, come dice lei, però ci sono anche molte altre che purtroppo a causa della mancata programmazione, di un mancato manutenzione, purtroppo sono quelle opere che poi vengono... che degradano. Che degradano e quindi causano tutto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, gli sms, abbiamo ricevuto tanti sms di protesta, di indignazione, insomma io non faccio il protestatario per forza, però devo dire che le reazioni sono state veramente veramente tantissime. Fara dice in Sicilia si sistemino le strade con i soldi dei ricchi stipendi dei consiglieri regionali, poi c'è chi ci dice in Sicilia naturalmente il problema è che piove, il traffico, Ugo, in Italia non è mai responsabile nessuno, solo i poveracci sono soggetti alla legge, che non è ovviamente uguale per tutti. Insomma, tante, tante proteste. Vabbè, andiamo in pubblicità, ma che ci riprendiamo. Mix 24. Non voglio un pretesto per pietà, sai che io detesto falsità, sei un po' più onesto quando vuoi. Fra di noi non restar perplesso ad inventare scuse che del resto non vanno mai oltre ad un... E allora lavori in corso oggi in metropolitana? Anche in metropolitana lavori, sì, in corso. Lavori in corso, tutto bloccato, le scale mobili sbarrate per riparazioni, camminamenti obbligati, tutto controverso. Come in Sicilia. E perciò sì, certo, infatti la Sicilia arriva, no? Con soste improvvise e appunto un ottimo pretesto per il filosofo e il professore di filologia bizantina per intrattenersi in conversazione, un pretesto anche per provare ad appoggiare sulla ferraglia depositata in attesa di collocazione una costruzione di carta, un castello presto precipitato nell'urto dei pendolari e nello stantuffo d'aria provocata dall'arrivo del convoglio. Questa, dice lui, è una giusta manifestazione dello smisurato, così appunto ha spiegato il filosofo raccogliendo le carte da terra. Un mondo simultaneo, ha aggiunto il professore di filologia tossendo finalmente dopo aver trattenuto a lungo tutto il respiro impregnato di mentolo, il mentolo che lui fuma continuamente. Ma sopraggiunse il Sufi e recitando Rumi disse: l'aggiungere dell'umano al mondo non arricchisce quest'ultimo, è solo pretesto. François Hardy, il pretesto. Non ne hai colpa tu. Non voglio un pretesto per pietà, sai che io detesto falsità. Ti ha fatto sognare François Hardy quando eri ragazzo? No, niente. No, non era... mio. Non è la roba tua, sei giovane. Ma vabbè, andiamo con le bolle, dai, dai su, vabbè. Ma... Allora, questa è la sigla di Mediterraneo, andiamo su un argomento, ahimè, più che triste, una certo. tragedia quotidiana, parliamo di sbarchi, di naufragi, di immigrazione. Non voglio entrare nel dibattito, anche perché sono state dette un sacco di cose, quasi tutte sbagliate, devo dire, pochissime sagge. E invece voglio dare due numeri che secondo me sono molto interessanti e raccontano tutto. Numero di morti totali in tragedie del mare da gennaio ad aprile 2015. Parliamo sostanzialmente di 1848 morti, 1600 nel Mediterraneo. 1600 su 1800. Se andiamo all'anno scorso, gennaio-settembre 2014, totale 4.077 morti accertati nel Mediterraneo, 3.072. Quindi è una bara proprio a cielo esatto. aperto. Il problema è tutto qui. Bastava, non era neanche una cosa, voglio dire, che scopriamo in queste settimane. No, no, c'erano era già, tutto scritto. C'erano già tutti i dati dell'anno scorso, qui le abbiamo già raccontate queste cose. Certo. Posso aggiungere una cosa? Certo. È una cosa che non è stata valutata opportunamente. Il crollo del prezzo del petrolio sta ponendo sotto pressione tutti i paesi africani che lo producono, ma a prezzi stavolta che non sono quelli di prima. Hanno i bilanci distrutti, popolazioni, milioni di persone stanno premendo dal sud dell'Africa verso il Mediterraneo. Quindi quando si dice un milione non è una cifra... Forse addirittura. Esatto, sono di più. Salamino! Quadratura del cerchio, il tondo si fece quadrato e, è il caso di dire, pei nemici non c'è scampo quando Silvio torna in campo. Manco è passato, caro Giovanni, un mese dalla fondamentale dichiarazione di Silvio Berlusconi, quella dove smentiva categoricamente di provare fastidio verso Dudù e Dudina, i due canuzzi, che il cavaliere, libero da ogni lacciuolo, sia giudiziario che politico, Mario lo sappiamo, no? Lui sogna di radere al suolo Forza Italia e ricominciare, ecco, lui allarga il cerchio magico. Non è entrata però Silvia Sardone dalla residenza di Arcore, e perché no? Erano tutti pronti, ora entra, ora entra, adesso ora entrerà, ci vorrà un po' di tempo, un po' di esami da fare. E certo, deve essere insomma, il cavaliere ieri ha nominato Marcello Fiori, responsabile agli enti locali. E prossimo a essere nominato è Andrea Ruggeri, ex avvocato, stimato autore televisivo, nipote di... Nipote di Bruno Vespa, che... Davvero? Sì, sì, nipote di Bruno Vespa, certo. Io non mi occupo di parenti. E noi diciamo. Allora, Ruggeri è nello staff comunicazione con delega alle presenze TV, quindi probabilmente sarà lui a decidere poi in merito alla Silvia Sardone, se può andare o non può andare. Comunque, di Silvio che torna in campo ne è venuta fuori una morale. E cioè è questa, che lui raccomanda a tutti i suoi: moderazione, smentisce dunque i toni accesi dei suoi in tema di polemica, vuole essere in linea col Partito Popolare Europeo, volta le spalle a Salvini e tende la mano ancora una volta a Renzi, perché lui nel cacciare Denis Verdini, nel fucilare Raffaele Fitto, si è consultato con Fedele Confalonieri e con Ennio Doris e si propone di tornare al rinnovo del patto del Nazareno, perché il motto categorico e impegnativo per tutti è: non scherziamo con la mobilia. E in tutto ciò Francesca Pasquale vigila. You got it, e tu ten grip, se per caso di Sara Tardelli, tocca a te. Oggi in tutte le librerie esce il libro di Enrico Letta, Andare insieme, andare lontano, un titolo ispirato a un proverbio africano. Ma anche ad Enrico Letta è preso il mal d'Africa? Mi viene il dubbio che per essere un PD doc bisogna parlare d'Africa. Ricordate Veltroni che voleva andare in Africa ma alla fine non c'è mai andato e adesso che fa il regista non gli è nemmeno venuto in mente di farci un documentario sopra? E anche Romano Prodi vuole tanto, tanto bene all'Africa e al Mali ancora di più. Da ultima è stata contagiata dal mal d'Africa anche il ministro Boschi, che è saltata sull'aereo per portare alle famiglie italiane adottive adorabili bambini congolesi pieni di treccine. Insomma, il PD che conta vuole aiutare l'Africa e inorridisce per i morti in mare. Però le mani al portafoglio non le mette neanche quando è al governo. E l'Italia per la cooperazione, cioè per portare in questi paesi i soldi e gli investimenti, spende lo 0,16% del PIL. L'obiettivo da raggiungere sarebbe lo 0,7% però nel 2020. Ma noi abbiamo deciso con il DEF che l'obiettivo per il 2020 sarà lo 0,3%, non lo 0,7%. Ma il PD vuole tanto bene all'Africa. Oh, Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male. Gli ha dato due pizze in faccia. Notizia, una bella notizia. Canzoniere. Preferirei essere un rosolaccio in una siepe che una rosa d'allevamento nelle sue buone grazie. E preferisco avere l'odio di tutti che simulare per conquistare la simpatia di questo o quello. Come adulatore non sarò un granché, ma come malfattore sono trasparente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Aspettiamo le vostre telefonate. Intanto pubblicità. Mix 24. Allora, sono un po' cinematografico oggi. Prima Mediterraneo e bello. Adesso il tema di Mission Impossible. Allora, tutte le immagini, Mattarella nei panni di Tom Cruise, no? Come Mission Impossible, è impossible appunto. C'è la riunione del Consiglio Supremo di Difesa oggi e verrà presentato il cosiddetto Libro Bianco, di cui noi abbiamo già parlato e dato un'anticipazione. Visti i fatti di questi giorni, il succo della faccenda è se noi siamo pronti ad assumere la leadership militare e non solo nel Mediterraneo. Il tema è tutto là. Sulla carta il Libro Bianco dà delle risposte, vediamo poi se la politica le metterà in pratica. E intanto abbiamo Andrea da Siracusa, rapidissimo. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo giusto così segnalare, dica, perché ormai qui siamo abituati a ridere sulle nostre disgrazie. Hanno inaugurato qualche anno fa la bellissima autostrada che va da Augusta fino a Catania e dopo tanti anni di viaggi, perché da studente universitario viaggiavo da Siracusa a Catania, ho scoperto che c'erano le Alpi tra Augusta e Catania, perché hanno fatto un'autostrada con diverse gallerie là dove non ci sono montagne, non esistono montagne, tant'è che hanno ricoperto le gallerie con qualche metro di terra camuffata con i pannelli fotovoltaici. Cioè, ci siamo inventati anche le Alpi in Sicilia? Ci sono inventate anche le Alpi. Ah, bella, questa è una bella notizia. Grazie. Quindi, no, ma è così, perché per esempio l'assessore al turismo del passato governo istituì i corsi per i maestri di sci in Sicilia. Salamino. Altro che dolce vita, altro che grande bellezza, è l'enorme imbarazzo. Immondizia e caos trasporti a Roma mettono in fuga i turisti. Oltre 200 direttori d'hotel si sono scatenati contro Ignazio Marino, sindaco, ebbene sì, è incredibile, sindaco di Roma, Ignazio Marino. È una cosa che proprio che i posteri non sapranno spiegarsi, e quindi altro che giubileo. La linea A della metropolitana termina il servizio alle 21.30, poi alle fermate degli autobus è tutta un'apnea di attesa. E Roma registra, dice Roberto Necci, il presidente dell'associazione albergatori, un numero di turisti 4 volte inferiore a Londra, a Parigi, a New York. E Roberto Wirt, che è il direttore dell'ASL, ha fatto in un colloquio con Repubblica l'osservazione secondo me più significante per svelare il livello cui si è ridotta la capitale. E cioè dice che se un lampione si fulmina sulla scalinata di Piazza di Spagna non viene nessuno a rimpiazzarlo e non si riesce neppure a ottenere risposta. Ecco, questo è forse un esempio banale, però è fondamentale. Una volta, come si diceva, capitale corrotta, nazione infetta. Ma tutto questo io lo dico oggi, giusto oggi, compleanno dell'urbe, Roma eterna nei giorni illuminati da Apollo e Diana, in ogni luogo liberato dall'oscurità. Allora, farro e sale vanno posti sull'ara, il sole infine avrà intorno a sé i cerchi festanti di una coppia di falchi in volo. Insomma, dimenticate Ignazio Marino e leggete oggi Alessandro Giuli sul Foglio, dopodiché una dedica politicamente scorretta alla città eterna. Prima o poi, Filippo Barsotti da Lucca mi chiede: ma qualche precisazione sulle accuse di aver contraffatto l'intervista a Palamara, non la fate? Meglio il silenzio. No, la facciamo, non abbiamo contraffatto nulla, ognuno fa il giornalismo che è capace. Bisogna leggerlo tutto quell'articolo sul Fatto, perché racconta esattamente alla fine che Palamara dice: l'abbiamo risentita, eravamo d'accordo su quel taglio. Grazie Filippo Barsotti. Sara, Marina, che cosa raccontiamo oggi come storia dopo il giornale radio? Oggi seconda tappa del nostro viaggio nella Cina di Mao Zedong e cercheremo di delineare gli intrighi del potere nel Partito Comunista Cinese fino ad oggi, sempre con il commento di Federico Rampini. A tra poco. Bene, abbiamo il vincitore del canzoniere? No? E allora, per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata, può ascoltarlo in replica questa sera alle 23, prima della pubblicità, Piccolo Uomo. Due mani fredde nelle tue, bianche colombe della Dio. Che giorno triste questo mio, oggi tu ti liberi di me che sono.